il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Si chiama Impari, con la N, e porta sottotitolo di Coltivazioni al femminile, un progetto lanciato da un gruppo di associazioni e cooperative padovane per valorizzare alcuni parchi pubblici della provincia. Il progetto inizia sabato prossimo, 9 maggio, al Parco Etnografico di Rubano e si concluderà a settembre. Anna Donegà è rappresentante di Vita in Viaggio, l'associazione capofila del progetto. Da lei vorremmo sapere da dove nasce questo progetto, qual è stata l'idea iniziale e come si svolgerà. Allora, l'idea iniziale è stata appunto quella di valorizzare alcuni spazi verdi della nostra provincia, coinvolgendo sia le organizzazioni che li gestiscono, sia altri partner, e abbiamo colto l'occasione del bando culturalmente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ci ha poi finanziato. Il progetto è presentato dall'Associazione Vita in Viaggio, che è un'associazione culturale nata nel 2009 a Selvazzano Dentro, e si sono uniti 9 partner tra associazioni e cooperative sociali. In effetti quello che caratterizza questo progetto è anche il gran numero di partner, ma anche che si occupano di attività diverse, perché si va dall'arte, ma anche alla coltivazione della terra, anche alla cucina, tantissime cose. Sì, esatto, perché il progetto vuole abbracciare il tema del femminile a 360 gradi, non tanto come questione di genere, quanto tutto l'apporto del femminile nelle varie aspetti culturali della nostra vita. Coltivazioni al femminile infatti è un po' il tema del progetto, però c'è anche curioso il titolo, il nome Impari con la N, che non vuol dire impari, non pari probabilmente, ma forse spiegaci esattamente cosa significa, e poi anche coltivazioni al femminile, che poi è anche il titolo del sito internet, che cos'è? Allora, PARI sta per Parchi, Arte, Ricerca e Innovazione, che sono i quattro, diciamo, caposaldi e obiettivi del progetto. E da qui è nato il gioco di parole PARI-IMPARI, legato anche alla questione appunto delle pari opportunità. E Coltivazione al femminile è il sottotitolo che dà il nome al sito, che spiega ulteriormente il legame tra la donna e la terra. Perché i parchi? Non sono stati scelti a caso, cioè queste iniziative culturali si potevano fare in tanti posti, magari nelle piazze delle città. Perché proprio i parchi? Allora, sono stati scelti i parchi, in particolare alcuni parchi gestiti da associazioni o da cooperative sociali, con l'obiettivo di valorizzare queste tipologie di gestioni che hanno come obiettivo il coinvolgimento dell'intera comunità nel vivere quel luogo. Quindi non sono stati scelti a caso. Possiamo dire quali sono? Sono il Parco di Rubano, il Parco Etnografico di Rubano, il Parco Buzzaccarini a Monselice, Alma Terra a Cervarese Santa Croce, Villa Vescovi a Luvigliano, il Chiosco di Kiwi a Camin, e l'ultimo sarà il Parco Lonzina a Torreglia. L'evento conclusivo invece a Ponte San Nicolò ad ottobre, con il Festival della Lentezza. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Try to keep you close to me. But life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rubbed our backs into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. So I can stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river, so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Let us hold each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so in linea con la rubrica Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di un progetto particolare che tocca i vari parchi della provincia di Padova. Il progetto si chiama Impari, Parchi, Arte, Ricerca e Innovazione, Coltivazione al Femminile. Le organizzatrici parlavano di cura, di prendersi cura di queste aree verdi, e chiediamo proprio a Caterina Benato, una delle organizzatrici, che cosa significa. Dunque, il parco è un luogo di incontro e quindi un luogo di accoglienza, e per noi il femminile, come l'abbiamo voluto declinare nel nostro progetto, è il concetto della cura, dell'origine e dell'incontro delle persone. Però questo non significa che non possono venire a queste iniziative anche i rappresentanti dell'altra metà del mondo. Dai, sono ben accolti e accettiamo anche i rappresentanti maschi, cioè quindi il polo maschile lo accettiamo, sempre che tenga presente e in qualche modo anche lui apprezzi e con noi festeggi la parte del femminile. Ecco, in queste iniziative si farà un po' di tutto, dicevamo, arte, musica, perfino cucina. Certo, in ogni parco che verrà che accoglierà alcune delle iniziative del progetto, noi porteremo delle piccole progettualità tipiche della gestione di questi luoghi. Quindi al Parco Etnografico di Rubano il 9 maggio ci occuperemo di panificazione e di cucina, e quindi la cura del cibo, la cura dell'alimentazione, mentre al Parco Buzzaccarini la cura dell'arte, e quindi del prendersi cura e del vivere un luogo, piuttosto che al Parco Lonzina, ad Almaterra, e il vivere delle famiglie, un luogo di incontro, e così negli altri parchi di cui stiamo definendo il programma di giorno in giorno. Quindi l'iniziativa inizia il 9 maggio al Parco di Rubano, si chiuderà a settembre con il Festival della Lentezza. Informazioni le potete trovare su un sito internet www.coltivazionealfemminile.it. Grazie. Concludiamo la trasmissione con le consuete notizie. A Feltre è stata avviata un'iniziativa per salvaguardare e promuovere l'anatra germanata veneta. Si tratta di un'anatra che discende direttamente dal germano reale e a seguito dell'attività di addomesticazione ha raggiunto in cattività dimensioni maggiori, mantenendo comunque una buona rusticità che gli permette di adattarsi bene all'allevamento estensivo e a produzioni di nicchia. Ora è stata avviata un'iniziativa per la costituzione di un presidio che ha come oggetto la sua salvaguardia e valorizzazione. A promuovere questa iniziativa, aperta ad allevatori, aziende agrituristiche e fattorie didattiche che intendano contribuire alla conservazione di questa razza, è l'azienda agricola El Puner di Feltre, in provincia appunto di Belluno. Ci spostiamo di poco e andiamo in provincia invece di Treviso, dove l'osteria La Muda di San Boldo, uno storico edificio del 400 situato a Cison di Valmarino, che ha riaperto da circa un anno sotto la guida di una coppia di due giovani, Federica Romitelli ed Enrico Perin, ha un progetto nel cassetto: adeguare l'antica sala degli archivi degli archi medievali del locale per trasformarla in un museo del miele e dell'apicoltura di montagna e in un punto informativo di riferimento per gli amanti della montagna e gli appassionati di storia. Gli oggetti in mostra saranno recuperati con l'aiuto e la collaborazione delle associazioni di apicoltori del Trevigiano e del Bellunese. I testi e gli eventuali supporti video saranno realizzati grazie ai fondi che riusciremo a raccogliere, racconta Federica. Per sostenerli esiste anche un progetto di crowdfunding, cui si accede dal sito internet www.produzionidalbasso.com cercando il progetto Al Passo con le Api. Infine, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha reso noto che è stato approvato a fine aprile nel Consiglio dei Ministri il decreto legge urgente per il rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno delle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionali e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. Il decreto interviene in particolare a favore delle filiere del latte e dell'olio e contiene misure per l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali del 2014 e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, come è il caso della xylella fastidiosa di cui si parla molto in questi giorni e che sta devastando intere piantagioni di ulivi in Puglia. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il quadrifoglio. Se volete ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.